si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Cause Uptown funk don't give it to you. Cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti, buona domenica da Alessio Maurizi. E buona domenica da Carlo Gabardini. Ascoltatori, ben ritrovati, quando sono le 8:37 minuti inizia una nuova puntata di Si può fare, il buongiorno del weekend di Radio 24. Vi aspettiamo, nonostante la sconfitta dell'Italia. Grandissima tristezza, mestizia. Ieri ce l'abbiamo messa tutta con i riti propiziatori, ma non è servito. No, i rigori. Dobbiamo richiamare qualcuno che forse ha sbagliato il rito propiziatorio, visto che ieri chiedevamo quali saranno i vostri riti propiziatori e non è andata bene per niente. Oddio, non è andata bene, è andata benissimo fino al 121esimo minuto. Esatto. No, benissimo, non abbiamo fatto una grande partita, bisogna dire la verità, è passata la squadra che in campo ha fatto vedere un po' più di gioco. Ma un una po' volta più arrivati lì, ho detto ce la si può fare, invece è un disastro. 800-24-00-24, vi aspettiamo, cari ascoltatori, per stare insieme a noi per commentare le notizie della settimana. Tra poco cominciamo la cavalcata, ricordandoci che cosa è accaduto negli ultimi 7 giorni e cercando anche un personaggio della settimana. Andiamo a dare il primo indizio, vai, subito. Vai, cominciamo. Con il primo indizio. È un personaggio internazionale. Quindi cerchiamo una notizia degli ultimi 7 giorni, un personaggio internazionale. Non mancano le idee, credo già. Così 800-24-00-24. E... c'è un sole bellissimo a Milano, ecco, se volevi chiedermi. Ma, Milano-Monterosa, sole bellissimo, meno male. E così credo un po' in tutta Italia l'estate decolla e noi siamo felici. Allora, annunciamo che avremo con noi nella seconda parte del programma i ragazzi di Radio Immaginaria, sì. Finalmente in studio dopo diverse puntate registrate fuori, invece finalmente, sì, li abbiamo qui, quindi la puntata la faranno loro, immagino. È l'ultimo giorno di scuola per noi, insomma, sì, è l'ultima domenica. Tra l'altro oggi è l'ultima domenica, perché poi dal prossimo weekend saremo in onda soltanto il sabato per tutto luglio, quindi ragazzi di Radio Immaginaria che ci hanno tenuto compagnia in questi sabati. Oggi li abbiamo ospitati di domenica con il loro viaggio nel bullismo con Cacciabulli. Insomma, saranno protagonisti gli under 18 dopo le 9, però adesso andiamo ad iniziare. Vai. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. E allora partiamo con quella che è senz'altro una buona notizia: il restauro del Colosseo si è conclusa la prima fase del restauro, quella degli esterni del Colosseo. Adesso si procederà con il restauro della parte interna, con la riabilitazione anche dell'arena. Saranno investiti altri milioni di euro, non solo pubblici, anzi in questo caso la notizia è questa, che sono soldi soprattutto privati, soprattutto, e da tantissimo che se ne parla, della Valle. Della soldi. Valle, gruppo Tozzi, Diego Andrea della Valle. E allora anche qui si può aprire un dibattito su è giusto, non è giusto, è sbagliato, va bene, non va bene, quindi vi aspettiamo all'800-24-00-24. Intanto sentiamo le parole del ministro Franceschini e di Diego della Valle. Oggi è importante l'inaugurazione di questa prima parte del restauro della Valle, e va ringraziato per questo, anche per la pazienza con cui ha sopportato le critiche nel momento in cui faceva una operazione a favore del pubblico, a favore dello Stato, ma va ringraziato perché questa operazione l'ha fatta ancora prima che in Italia fossero introdotti incentivi fiscali veri per il recupero del patrimonio culturale. Operazioni come questa del Colosseo ci servono per fare una start-up dei rapporti tra il mondo delle imprese e quello che è pubblico, e considerare la giornata di oggi una giornata che ha un senso economico importante. E allora, fa strano sentire, sì, il fatto che il buono sia che Della Valle li abbia investiti prima degli incentivi fiscali, detto onestamente, perché l'incentivo fiscale deve servire esattamente a questo, non è che, sì, dà fastidio, siccome, sì, ha investito 25 milioni, onestamente mi sembra strano di immaginare che l'abbia investiti prima di sapere che ci sarebbero stati gli incentivi, ma va bene, non capisco perché ci vergogniamo di dire metti 25 milioni che regali per il Colosseo, per tutta la collettività, e avrai un beneficio fiscale, ma su quei 25 milioni mica su altro. Il punto è che non so se questi 25 milioni della Valle poi rientrano nel beneficio fiscale, essendo stati stanziati prima della legge. Quindi diciamo, lui li ha messi Della Valle senza pensare che gli ritornasse in tasca una lira, gli ritornava in tasca l'immagine, gli ritorna, ecco, è normale, nessuno butta 25 milioni. E poi insomma, bisogna dirlo, in passato è sempre stato così, facciamocene una ragione, le famiglie private, le famiglie, grandi famiglie dell'economia, della borghesia, delle professioni hanno sempre finanziato, sovvenzionato il patrimonio artistico, sempre, non avremmo credo i tre quarti dei monumenti che ci sono se non ci fosse stata questa cosa. Oggi che ci sono gli stati moderni, esiste il concetto di bene pubblico, le cose sono un po' diverse, però insomma, siamo ancora qua a fare i conti con i soldi che non bastano mai. E allora avanti con i lavori del Colosseo, da una città dove il rapporto tra pubblico e privato è molto proficuo, andiamo in una città dove questo rapporto tra pubblico e privato crea qualche problema. Parliamo di Firenze e della querelle, come vogliamo chiamarla? Querelle è perfetto, però è una questione diversa, perché qua si sta parlando di commercio. È McDonald's, sì, che vuole aprire in Piazza del Duomo e il comune gli dice, a volte gli dice di sì, poi di no, poi di sì, poi di no. Adesso pare che gli abbia detto di no. Sentiamo Nardella, il sindaco della città. Ci sono già tanti troiai in Piazza del Duomo, uno in più non fa la differenza, no? Altre critiche che ci sono state fatte. Ma perché dire no a McDonald's? È già pieno di troiai, uno in più non si nota. Non mi sembra una grande argomentazione questa, scusate. Ma oggi noi siamo un po' come il David della Repubblica Fiorentina, contro il Golia. Il David che ha una fionda in mano. E il Golia è una grande multinazionale, forte, potente, che ha studi legali, avvocati, esperienze in tutto il mondo. Noi abbiamo le nostre ragioni. Siamo gente di Toscana, ne si fa per ride, ma non ci venire in ghigna prima di fare le sfide. Vai in bibliotea, leggi l'audio guida, la ola, l'annuncio, orta, orta, bene vide. Siamo gente di Toscana, ne si fa per ride, ma non ci venire in ghigna prima di fare le sfide. Vai in bibliotea, leggi l'audio guida, la ola, l'annuncio, orta, orta, bene vide. De, uno ho capito com'è, che oggigiorno tutti vanti fanno i ganzi, fanno le anzoni, or dialetto fanno i boni, e noi si deve fare la figura dei coglioni. Oh, t'avverto, un di che un te l'ho detto, un prende per il culo perché un short dialetto, che poi rappo in vernaulo e ti cao sul petto. Ascolta bimbetto, portami rispetto, short sono senza sci, oh la la taomi a dirlo, veni vi, obriao, ti pare e ti cao, dal Chianti alla Maremma, dal litorale al prao, Versilia e Lunigiana nella Asa e Pisa, gao. Siamo gente di Toscana, e si fa e va bene con questa gente di Toscana con la J. Chiaramente stiamo parlando di questo, della città di Firenze e della querelle tra il sindaco della città e il gruppo McDonald's per l'apertura di un centro in Piazza Duomo. È con noi Gilberto Bertini. Buongiorno Gilberto, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie di avermi invitato. Allora, Gilberto Bertini è colui che ha fondato ed è l'amministratore della pagina No al McDonald's in Piazza Duomo e al Degrado, e anche e soprattutto l'organizzatore del Lampredotto Pride o Lampredotto Day, che si terrà quando, Gilberto? Sarà mercoledì 13 luglio alle ore 20, proprio davanti al locale dove dovrebbe aprire McDonald's, quindi Piazza San Giovanni davanti al Duomo. Intanto, che cos'è l'ampredotto per i non toscani? L'ampredotto è, per usare un termine moderno, è lo street food tipicamente fiorentino. È un panino buonissimo. È un panino con dentro il quarto stomaco della mucca, ed è un unicus nel panorama gastronomico praticamente mondiale, viene fatto. Ora, detto così, alle 8:45 di domenica mattina può anche risultare un po' forte come idea, come sapore, però sappiate che è un panino tenerissimo, il pane va bevuto leggermente nel brodo, diventa tenerissimo, è proprio, si scioglie in bocca, diciamo che all'hamburger gli fa un baffo, ecco, se vogliamo, senza nulla togliere, senza, al più famoso hamburger forse, però è anche questo il concetto del panino con la carne, che a Firenze è una cosa storica perché c'è sempre stato, no? Assolutamente sì, questa è, si tratta della storia culinaria di Firenze e della Toscana tutta. Viene dall'arte del riuso, che a Firenze è sicuramente nelle corde. Scarti della lavorazione di altre carni, eccetera, così come la ribollita, l'altro tipico piatto toscano. Esatto, gli scarti delle verdure, la panzanella, tutti gli scarti che poi pomodoro. Diventano piatti eccezionali. Allora, noi adesso ci stiamo facendo prendere la mano già e lo stomaco. E lo stomaco, sono ancora le 9, già c'ho un pizzico di acquolina in bocca. Però fermiamoci un secondo per il traffico e poi parliamo sì di questo McDonald's sì, McDonald's no, in Piazza Duomo, perché quali sono le ragioni del sindaco di Firenze e quali sono le ragioni invece di questa pagina che ha raccolto quante adesioni, Gilberto? Adesso siamo circa 16.800. Che poi non è detto siano tutti fiorentini, può darsi che siano molti. Hanno scritto da tutta Italia . E anche da tutto il mondo. Va bene, torniamo Abbiamo tra un attimo. L'appoggio. Grazie. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Cari ascoltatori, vi aspettiamo all'800 24 00 24, anche perché stiamo cercando un personaggio della settimana. Chi risponderà per primo si porta a casa i biglietti della mostra di Miro al splendido Mudec di Milano. Il primo indizio che abbiamo detto è che è un personaggio internazionale. È un personaggio internazionale, benissimo. E allora, in qualche modo stiamo assistendo a un confronto tra un gigante internazionale come McDonald's e invece le prerogative di una città particolare come Firenze. Le motivazioni del sindaco Nardella sul no al McDonald's in Piazza Duomo è un no suo personale, sarà poi una commissione tecnica che dovrà valutare, però è questo, insomma, abbiamo un regolamento UNESCO, ha detto Nardella, che pone un argine contro la totale deregulation delle attività commerciali, un argine necessario a salvaguardare le attività storiche del patrimonio culturale fiorentino. Voi, Gilberto Bertini, perché avete animato questa pagina No McDonald's in Piazza Duomo? Qual è il motivo per cui non volete che la McDonald's sbarchi, come si dice, in piazza, nella centralissima piazza del Duomo di Firenze? Allora, il motivo per cui abbiamo fatto questa pagina viene da lontano, ovvero sono 7 anni che il centro di Firenze ha avuto una progressiva inclinazione al degrado. Il centro di Firenze attualmente è costruito a livello economico e a livello di tutta la composizione per i turisti. Non è più vivibile, non è più sostenibile per i cittadini a livello dell'offerta economica, dai negozi alla ristorazione, alla criminalità e al degrado e al sudicio. Questi sono stati, diciamo, i sistemi in cui progressivamente il centro ha iniziato a diventare una realtà parallela a quella dei cittadini di tutti i giorni. Il 17 giugno in Consiglio Comunale l'assessore allo sviluppo Bettarini se ne esce con una frase che ci ha lasciato profondamente sbigottiti, cioè che la prima regola, la prima deroga al regolamento UNESCO sarà per McDonald's, che aprirà sotto il Duomo, aggiungendo che questo è un grandissimo successo per l'amministrazione. Ecco, io come cittadino, sì, come cittadino che non vuole portare avanti una crociata né lì né contro McDonald's, cittadino, ho bisogno, sento la necessità di far sentire la mia voce, far sentire che Firenze può essere, può vivere chiaramente sull'economia del turismo, ma deve tenere, l'amministrazione deve tenere conto anche di noi cittadini. Per cui ho fatto questa pagina, non pensavo di avere questo eco mediatico e questo record di like in pochi giorni, e si vede che tanti fiorentini hanno capito, tanti cittadini fiorentini, ma anche italiani e stranieri hanno capito la nostra battaglia, hanno capito che non è solo una guerra ideologica contro McDonald's, è un modo veramente per dire col sorriso, educatamente, sì, con ironia tipica di noi fiorentini, che anche noi contiamo e che forse usare le parole qualità, le parole successo, bisogna iniziarci a pensare. Sì, in realtà mi sembra che l'hai spiegato molto bene dicendo non è solamente McDonald's, perché la questione così puntualizzata su McDonald's è un po' da capire, perché io mi sono chiesto, ma se apre spizzico a voi va bene? A me personalmente non va bene. E quindi la questione, nel senso che è molto chiara la protesta che tu dici, ci sono anche i cittadini, non può essere solamente il commercio. Poi dall'altro lato la questione che mi chiedo è che comunque il commercio fatto in Duomo è fatto da voi fiorentini, perché non è che è una scelta fatta da uno stato estero, giusto? Cioè siete voi che ci guadagnate tutti con il turismo e poi dopo improvvisamente dite però in realtà ci sono anche i cittadini. E quindi volevo capire questo punto che tu giustamente dici, sono 7 anni, non è solamente la questione di McDonald's, è una storia che parte da lontano. Certamente, bisogna tenere conto del fattore qualità della vita, e il fattore qualità della vita passa anche dal fatto che io, da cittadino residente a Firenze, non posso pensare di andare in centro a un ristorante che non ci sia un'offerta di pessima qualità e non ci sia, e ci siano dei prezzi veramente altissimi. Oppure non, io sto particolarmente attento al decoro urbano e non posso passare davanti alla facciata del Duomo e vedere l'accampamento come se fossimo in un camping, ad esempio. Questi sono dei fattori. Ora, il discorso lei giustamente mi chiede, ma se fosse stato spizzico, allora innanzitutto le dico che non so darle una percentuale, ma ritengo che sia molto alta, circa il 70% delle attività non sono fiorentini, sono franchising, sono negozi che si possono trovare in tutta Italia. Ora, questo chiaramente... Sì, un po' come in tutto il mondo, nel senso che siamo in un momento di globalizzazione. Il titolare è la McDonald's, poi chiaramente ci lavorano anche i fiorentini a fare gli hamburger. Questo è indubbio che creino fossi di lavoro. Ora, chiaramente sarebbe utopico pensare di poter fare una battaglia di questo tipo contro un trend mondiale, perché in qualsiasi no città... ma in realtà voi la state facendo, perché va anche ricordato che in realtà la proposta è di avere il 50% dei negozi nuovi che devono vendere prodotti solo toscani, cioè quindi anche se vengono dal Lazio non possono aprire. Esatto, della filiera corta della Toscana, ma e questa chiaramente riguarda l'offerta della ristorazione. Francamente, se voi un giorno venite a Firenze, ci facciamo una bella passeggiata anche dal lato di... ci sono appena stato a Firenze, perché ero lì, ero il testimonial del Toscana Pride a Firenze, quindi sono felicissimo di annunciare adesso il Lampredotto Pride, ci mancherebbe altro. Quindi l'ho anche appena vista, però era interessante sentire il tuo punto di vista, giustamente. Certamente. Poi io le dico, io ho un lavoro, devo pensare a lavorare, e diciamo che questa pagina che mi è arrivata da capo e collo con questo successo, e pensare di fare una crociata contro, come diceva il sindaco Nardella, contro Golia, non è facile. L'unica cosa che possiamo fare, e penso io la trovo un esercizio democratico, la trovo una cosa positiva, sì, è chiamare i fiorentini e chi vuole, anche tutti i cittadini. Infatti, come abbiamo scritto, non è che noi siamo contrari alla multiculturalità, però chiamare chi vuole a venire col sorriso, con una porzione di cibi tipici di Lampredotto, se possibile. Molto bello quello. Il prossimo mercoledì 13 luglio. Allora, intanto noi ti ringraziamo, Gilberto Bertini, per essere stato con noi. Per quanto mi riguarda, non ci sarò, credo, fisicamente, ma ci sarò col cuore a Lampredotto Pride, perché il Lampredotto tutta la vita. Non abbiamo neanche noi nulla in particolare contro il McDonald's, direi, però è bello che una città come Firenze discuta intanto di questa cosa. Cibo locale, cibo non locale, sono tante le tematiche che ci sono dentro, non solo il degrado, non solo il patrimonio culturale, ma anche la qualità del cibo, eccetera eccetera. Avete sentito le ragioni del no a McDonald's in Piazza Duomo. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio, marketing, informazioni commerciali e recupero crediti, assicom.com. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno, adesso Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Vi aspettiamo all'800 24 00 24 per stare con noi, per commentare. Avete sentito la storia, la guerra Davide contro Golia, così l'ha definita il sindaco di Firenze, che fa una sorta di crociata contro il McDonald's in Piazza Duomo. Sì, signori. E abbiamo parlato con Gilberto, che sta organizzando il Lampredotto dei... Però abbiamo capito che non è una lotta precisa solo contro McDonald's, ma in generale contro il degrado e il fatto che la città si occupa più dei turisti e non dei degli cittadini. Abitanti, giusto? 800024 secondo me si occupano più dei turisti che di loro stessi. 0024. E poi vi aspettiamo perché stiamo cercando un personaggio della settimana. Il primo indizio che abbiamo dato è che il personaggio è un personaggio internazionale, quindi cerchiamo una notizia degli ultimi 7 giorni, cerchiamo un personaggio della settimana, che indovina per primo si porta a casa i biglietti della mostra di Miró allo Splendido Mudec di Milano. Vai. Ma le uniche cose che perdiamo dall'uscita della Gran Bretagna è l'humor inglese, questo l'abbiamo perduto, è un po' la cultura dei giardini, per il resto non credo che perdiamo molto. Questa era un'interpretazione facile, diciamo, facile della Brexit. Beh, molto riduttiva, molto giusto, riduttiva. Giusto lo humor riduttiva. E un pochino la cultura dei giardini, ma poi, perché comunque poi c'è il giardino all'italiana. Ma direi sai che gliene importa in campagna, fino in campagna della Brexit, della Gran Bretagna, è lontana la Gran Bretagna dalla Gli importa è come ci importa a tutti, in realtà. Sì. Però diciamo, è una buona battuta. Allora, sentiamo altre voci della settimana sulla notizia importante, insomma, sulla Brexit. Sentiamo prima Di Maio, 5 Stelle, che annuncia e conferma l'ipotesi del referendum, e poi Salvini, che è uno dei no euro più convinti della Lega, che però dice il referendum non serve, ci vuole altro. Noi abbiamo sempre sostenuto dal 2013 nel programma elettorale che sull'euro si debba fare un referendum, perché come ci hanno portato nell'euro senza decidere, oggi dobbiamo decidere come cittadini se restarci o andare via. Il referendum sull'euro sarebbe un massacro e un'agonia per un sistema economico. O stai dentro o stai fuori. Quello che posso dire è che se la Lega andrà al governo, noi usciamo. Ma sono cose che fai in fretta, altrimenti i Soros della situazione, se fai 3 mesi di campagna referendaria sull'euro, ti massacrano, ci lasciano in mutande. Smettila, dai, non ti ho neanche toccato. Hai un bullo avvitato tra i piedi? Svitalo con il cacciabulli di Radio Immaginaria. Ogni sabato su Radio 24. Oh, non abbiamo sbagliato, perché oggi è domenica, lo sappiamo. Però sì, questa era la sigla che abbiamo utilizzato per il nostro cacciabulli, e sono con noi I veri cacciabulli, sono qui con noi e finalmente Eccolo. Sono tantissimi, è veramente l'ultimo giorno di scuola. Infatti oggi domenica li abbiamo invitati tutti qui, sono Radio Immaginaria. Sono in 7, adesso in studio con noi ce ne sono 2, 4, 5. Li presentiamo, sono Davide, che è l'unico over 18, che diciamo non dovresti già più far parte di no, adesso di Radio Immaginaria. No, diciamo. No, diciamo che c'è, dopo 18 anni appunto puoi fare una scelta, dopo aver deciso, okay, se ti piace, allora ti prendi una responsabilità in più e allora fai l'accompagnatore. Accompagni, come ragazzi, è una bella scusa per continuare a fare la radio. Però già è una storia stupenda, perché voglio dire, è l'unico 18enne che in realtà è licenziato, perché Radio Immaginaria è fatta solamente da persone minorenni, e quindi lui purtroppo è arrivato ai 18 anni e adesso inizia finalmente la pensione. Altro che legge Fornero, inizia la pensione a 18 anni. Poi abbiamo Matteo, 16 anni. Ciao Matteo, benvenuto. Chiara, 14 anni. Ciao. E poi Ilias, 14 anni. Ciao. E abbiamo pure Edoardo, 16 anni. Ciao. E allora, ragazzi, benvenuti. Avete sentito, abbiamo fatto un bel salto. Avete sentito parlare di Brexit ultimamente? Sì. Già il tono di voce si abbassa. Sono più preparati di me, di sicuro, guarda. È una cosa di cui avete parlato, vi interessa? Avete capito intanto che cosa... insomma, la Gran Bretagna ha detto ciao all'Unione Europea. I bulli se ne sono andati, diciamo, si sono autocacciati. Direi che la Brexit è quasi un'autocacciata di bulli. È una cosa che vi interessa da 0 a 100 quanto? Sinceri, ragazzi, sinceri. 70, personalmente 70. Abbastanza. A me è 50. Non troppo. Ilias? Io direi 40. Cioè. Poco, Chiara? Anche 40. Va bene, dai. Ma come mai 40? Nel senso che non vi interessa? Ma insomma, loro pensano al loro futuro, forse andare l'anno prossimo, cosa fare. cose italiane magari, il lavoro, sì, in esatto. prospettiva, l'Inghilterra dice è lontana, insomma. Esatto. Cavoli loro se hanno deciso di lasciare l'Unione Europea. Ma hanno fatto bene, Matteo, tu che hai detto 70, quindi ti è interessato di più la cosa. Hanno fatto bene gli inglesi, secondo te, a lasciare questa Unione Europea o no? No, per nulla, assolutamente. Mm. Vedi, tac, così. Tu non avresti votato per lasciare l'Unione Europea. Perché? Perché diciamo che dà un sacco di possibilità. L'Erasmus, siamo stati con Radio Immaginaria qualche settimana fa ad un centro di ricerca europeo che è qui ad Ispra e quindi mi sono reso conto di quanto possa essere un'opportunità di collaborare insieme con altri con persone di altri paesi. Almeno per noi italiani che abbiamo alcune difficoltà sul lavoro, sulla ricerca e sulle prospettive per i giovani, esatto. L'Europa è una approda, è una speranza, è una possibilità. Esatto, esattamente. Può darsi che gli inglesi l'abbiano vista invece al contrario, eh? Che dici, Carlo? Sì, probabilmente, perché pensando di essere i più grossi loro, sì, i più sì. bravi loro, di non averne bisogno. Allora, però, Cacciabulli, siete stati con noi per, credo, 6 puntate. Chi ha partecipato? Chi ha fatto cose su Cacciabulli, ragazzi? Edoardo? Vabbè, Davide pure. Sì, sì, io quando ero ancora un adolescente pure io ho avuto anche io le mie esperienze. Cioè praticamente fino a qualche mese fa. Esatto, appunto, proprio siamo arrivati. Hai fatto un passaggio. Esatto. È stato difficile bullizzare un diciottenne perché è troppo vecchio, mi sembra comunque ottimo. Volevo solamente questo dire agli ascoltatori che hanno sentito Radio Immaginaria qui da noi, che qualunque domanda avessero via SMS o sui nostri social, che possono ovviamente farle, noi rivolgeremo le domande ai veri conduttori di oggi. Certo. Ragazzi, Edoardo, è stato difficile parlare di questo tema, il bullismo? È stato liberatorio in qualche modo? Hai scoperto qualcosa, cose che sapevi già? Allora, è stato liberatorio, ma allo stesso tempo un po' preoccupante come cosa, nel senso che avevo un po' vergogna a raccontare ciò che mi era successo, anche se a distanza di vari anni è stato veramente molto difficile per me riuscire a raccontarmi veramente in radio, soprattutto su una linea così grande e importante, anche con la possibilità poi di essere anche ascoltato da altre persone. Perché tu hai raccontato cose tue, personali anche? Sì, no, comunque sì. Ho raccontato ciò che mi era successo, sì. E la gente che mi conosce sa veramente cosa mi è successo e che comunque non è stato facile, anche perché loro adesso mi vedono in un modo, ma prima ero completamente diverso. E dopo aver fatto questa esperienza alla radio, che da quello che ho capito è anche quasi una cosa terapeutica, come tu ci stavi confermando, cioè si comincia a parlarne, cominciate a parlarne tra di voi, e quindi è come liberarsi anche di un peso, no? Di un fardello, una cosa di cui magari non si parla, il rischio di essere vittime di prepotenze o di prese in giro da compagni più grandi, coi genitori per esempio, si parla di questo o no? Allora, si parla... Non sempre. Si parla solamente se i fatti sono evidenti, come era successo grosso. A me, che ad esempio avevo lividi dappertutto. Allora i genitori si fanno un po' di domande. Ma se sono, tra virgolette, se è del bullismo psicologico, nel senso che non ti colpisce battute, fisicamente, prese in giro, cose così, esatto. Passa più inosservato e è difficile anche poi andare a parlare con qualcuno. Assolutamente, soprattutto il figlio non tende a dirlo, almeno per quanto riguarda il mio caso. Io non l'ho mai detto finché i miei genitori ci si vergogna comunque. Esatto. E ricordiamo che però invece fa male tanto quanto, a volte di più, nel senso che non è il livido l'unico dolore che si può procurare, ma i problemi psicologici che ti porti dietro e dei quali non parli perché non sono evidenti, spesso diventano anche molto più gravi. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo di nuovo con Radio Immaginaria, di nuovo con gli ascoltatori all'800 24 00 24. Cerchiamo un personaggio della settimana, tra l'altro che è un personaggio internazionale. Benissimo, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Ben ritrovati. Se sentite dei rumori di sottofondo, sono Giacomo ed Eugenio di Radio Immaginaria che ci hanno raggiunto. Quindi adesso in studio siamo veramente una cifra. Siamo in 9 in questo momento. È l'ultimo giorno di scuola. Adesso credo che tutti noi legheremo Alessio Maurizi, che è il vero professore. E finalmente, ultimo giorno di scuola, e ognuno può dire quello che vuole. Adesso tiro fuori la bacchetta e vi bacchetto tutti per bene, se non fate i bravi. Ascoltatori, abbiamo Franco che ci chiama da Bergamo. Buongiorno. Ciao, Franco. Buongiorno. Eccolo. Buongiorno. Qua, eccolo. Per intervenire su che argomento, Franco? No, no, tra il quiz della settimana il personaggio internazionale. Benissimo. È facile. Chi è? Ma per me è il presidente dell'Inter. Il nuovo presidente dell'Inter. E qual è la notizia legata a lui? Perché noi cerchiamo sempre un personaggio che ha una notizia legata a questa settimana. La notizia legata a lui è che ha lanciato il nuovo slogan dell'Inter: Forza Linda. Eccolo qua, forza. Esatto, Linda. Che è diventato spopolato. Talmente virale che ce l'abbiamo anche noi subito in pronto. Diretta, pronto. Ma sei interista? No, per niente, Valentino. Si sente, infatti. Vai, ragazzi di Radio Immaginaria, tifosi, interisti, niente? No, nessuno. Milanisti? Milanisti. Sì. Un milanista, gli altri disinteressati proprio al calcio, zero, oppure ti fate per altre squadre? Altre squadre. Potete dirlo che... Scusaci Franco, che abbiamo uno studio strapieno di ospiti, sì. E quindi... Ma non ho capito se ho vinto, ho vinto qualche cosa. No, non hai vinto, Franco, ci stavamo arrivando. Stavamo cercando, esatto, di indorare la pillola per spiegarti che non hai vinto. La notizia c'è, il personaggio, ma non è quello che abbiamo scelto questa settimana. Grazie, sarebbe stato un po' facile, un personaggio internazionale, il presidente dell'Inter, che nel nome completo è internazionale. Ah, dici che è quello stato il passaggio. Sì. Allora, però mi interessava, squadre, tifosi, vi interessa il calcio? Sì, a me molto. Sì. Beh, insomma, poi oggi è una giornata... Ma hooligans sono in realtà? Sì, forse, no, spero di no per loro. Siete tristi per l'uscita dell'Italia? Un po'? No, io non sono. Tengo al Real Madrid, è un po' strano, però. Ah, Ilias tiene per il Real Madrid. Ma ieri, però, Italia-Germania. Nazionale Italia. Ah, ok. Ma siete tristi per l'uscita dell'Italia? O vabbè, insomma, dai. Stamattina mi sono risvegliato sognando il rigore sbagliato da Pelé, che non è stato l'ultimo, sì. Ma mi ha deluso tantissimo. Pelé ha deluso tanto perché ha giocato una grande partita, secondo me, molto generosa, poi ha deluso proprio nel momento più importante. Soprattutto perché ha fatto il gesto del cucchiaio al portiere, ha fatto prima di battere il rigore, ha fatto il gesto come dire ti faccio il cucchiaio, ha fatto anche il bullo, se possiamo dirlo, ed è stato vergognosamente punito. Purtroppo sono stati puniti tutti i 60 milioni, ma insomma... E allora andiamo, un'altra risposta. Emilio da Bergamo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Chi è il personaggio? Secondo me il personaggio della settimana è Cristo, l'artista bulgaro che ha fatto la famosa passerella sul lago di Iseo. Assolutamente un personaggio internazionale. La notizia è precisissima, visto che oggi è l'ultimo giorno della passerella di cui abbiamo parlato anche ieri. Ma non è il personaggio che avevo scelto. Grazie, Emilio. Ne abbiamo parlato lungamente ieri. Grazie, così abbiamo ricordato anche questa cosa, il Floating Pierce. Non è lui il personaggio, è un altro, il personaggio internazionale. Questo è il primo indizio che vi abbiamo dato, che andiamo cercando. Tra poco un altro indizio. Prima però, andiamo a Bergamo per un record che stanno tentando di fare, incredibile. Oggi, bellissimo. Per parlare di questo abbraccio, il più grande abbraccio, si sta tentando di realizzare il più grande abbraccio, un monumento mai realizzato al mondo. Sì signori, il più grande soprattutto. Grande, roba da Guinness. Ecco noi il sindaco Gori, buongiorno Giorgio Gori. Buongiorno sindaco. State? Allora, buongiorno. Tutto è pronto per tentare l'assalto a questo record? Ormai sì, il giorno è oggi. Dalle 3 alle 5 le persone che si sono iscritte all'abbraccio delle mura saliranno verso Città Alta e poi alle 6 misureremo finalmente quanti davvero siamo. Perché diciamo ci sono anche i giudici del Guinness, quindi dobbiamo essere precisi. E come funziona esattamente questo abbraccio? Cioè tutti contemporaneamente ci si abbraccia oppure è un passaggio tipo una staffetta? Sono due cose diverse che facciamo una dopo l'altra, anzi ce n'è una terza in mezzo che vi racconto. Mai contenti? La prima è esattamente questa, cioè le 12.000 persone, in realtà gli iscritti sono di più, ma immaginiamo che alla fine siano 12.000, si disporranno su due file, una di fronte all'altra, e al via dovranno abbracciare la persona che hanno esattamente di fronte. Questo è il primo record, l'abbraccio più grande del mondo. La seconda è invece si porranno una accosciata come nelle squadre di calcio, sì, partita, sì. E l'altra abbraccerà alle spalle la persona che ha davanti. Dopodiché le due file torneranno a distanziarsi e ognuno dovrà abbracciare al via la persona che ha alla sua sinistra, proprio come in una staffetta, e questa è un ulteriore Guinness. Ma è complicatissimo. Oddio, è una specie di quadriglia, nel senso che ho letto che oggi verranno spedite delle mail a tutti i 16.000 o più che si sono iscritti, in cui ci sono esattamente tutte queste istruzioni, giusto? Abbiamo spiegato, abbiamo fatto dei video tutorial per spiegare quello che succede, poi ci saranno comunque dei comandi in audio che percorreranno. Speriamo che siamo tutti preparati, perché sennò immagino 12.000 persone che speriamo soprattutto che siano un numero pari, perché immaginati che se in quel momento lì, se siete in 128.000 e 217, si aggiunge il sindaco. Cioè, in quel caso si aggiunge il sindaco. Perfetto. Il jolly è il sindaco. Però tutto questo, se abbiamo capito bene, sindaco Gori, punta in qualche modo a valorizzare il patrimonio culturale e monumentale di Bergamo. Sì, perché le mura di Bergamo sono, insieme alle fortificazioni della Repubblica Serenissima, di altre città, altre 10 città italiane, croate, montenegrine, sono candidate come patrimonio dell'umanità UNESCO. Sono le fortificazioni veneziane tra XV e XVII secolo. Solo che questo lavoro ha più probabilità di arrivare al successo, quindi di vedersi effettivamente riconosciuta nel patrimonio dell'umanità, se c'è una grande partecipazione popolare, non può essere solo una candidatura di studiosi. E quindi abbiamo cercato di coinvolgere i nostri cittadini. La risposta è stata strepitosa, perché in due settimane appunto 15.000 persone si sono iscritte. Ecco, infatti a noi ci è sembrato un si può fare perfetto questo, perché il si può fare si può fare il record, ma si può fare anche che attraverso questo record si raggiunga il riconoscimento da parte dell'UNESCO, anche perché è una parte che secondo me ci si dimentica spessissimo, che Bergamo è una città bellissima. In realtà spesso Bergamo, diciamo, tra i primi aggettivi che gli vengono accollati non è la bellezza, invece è proprio anche bellissima. Bene, grazie. Grazie da parte di tutti i bergamaschi. E poi naturalmente speriamo anche che questi abbracci servano a far passare un concetto di amicizia, di fratellanza, di amore, perché no, di solidarietà in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo. Un abbraccio magari virtuale anche agli inglesi che ci hanno lasciato con la Brexit. Gli inglesi possono, sindaco? Possono venire anche i Brexit? Tutti possono anche i bresciani. Infatti ce n'è un migliaio che si sono iscritti, ed è un bel segnale, trovo, no? Cioè questo è un periodo di divisioni, di muri che si alzano. A Bergamo c'è un abbraccio di migliaia di persone, mi sembra. Ma attenzione però, perché se migliaia di bresciani vengono ad abbracciare le mura, tecnicamente è un assedio, credo. Cambiamo scenario in questo caso. Mi tocca la curiosità, l'ultima, sindaco, ma è vero che sono i giudici del Guinness? Certo, sì. Sono stranieri? Il record deve essere omologato, per cui tutti i partecipanti, prima di disporsi lungo il perimetro, devono in qualche modo farsi registrare attraverso il QR code che hanno, nell'email che hanno ricevuto, in una delle quattro porte della città. Ma stanno lì anche a sottolineare se l'abbraccio è fatto con affetto o meno. O no? Non lo so, spero di sì. A che ora si saprà se il record è stato raggiunto? Alle 18:15 al più tardi dovrebbe aver finito. Magnifico. Grazie a voi. Va bene, grazie Bergamo. Sindaco. Il record di abbracci oggi dalle 15, se ho capito bene, alle 17, appuntamento a tutti a Bergamo per darsi un grande abbraccio, per entrare nel Guinness dei primati, per far passare questo concetto di amore e anche di amore per la città di Bergamo e per le sue mura storiche. 800 24 00 24, tra poco torniamo con gli ascoltatori. Ragazzi, com'è questa cosa dell'abbraccio? Vi piace? Cioè, Io sono di Bergamo. Sei di Bergamo. E io ci sarò lì. Hai tirato fuori l'accento proprio adesso. Esatto. L'avevi nascosto. Cioè, fino adesso non l'avevi usato questo accento. Quindi tu ci sarai. Io sarò lì. Uno dei ragazzi di Radio Immaginaria sarà lì per l'abbraccio assieme al sindaco Giorgio Gori e a tutti i bergamaschi. Ma mi fate fare una cosa proprio. Ma qualcuno di voi ha avuto gli esami? Avete fatto gli esami? Sì. Chiara, com'è andata? Bene, è andata meglio di quanto pensassi. Terza media, naturalmente. Sì. Perché sono esami, mia nipote l'ha fatto quest'anno. Si sono complicate le cose, Carlo, rispetto a quando abbiamo fatto noi. Ci sono un sacco di prove, è vero? Sì, c'è quella di il tema italiano, la prova di matematica, la prova di inglese, francese, le invalsi. Mamma ragazzi. Poi c'è l'orale, vabbè. Com'è andata? Il voto lo sai già? Sì, sono uscita con 8. Beh, 8 su 10. Sì, sono entrata col 7 e sono uscita con 8. Brava, complimenti, Chiara. Sono entrata col 7, sono uscita con 8, è la storia di una rapina. Allora, abbiamo ancora un ascoltatore per il gioco, forse Cristina, un'ascoltatrice da Milano. Buongiorno, benvenuta. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Allora, per me la regina Elisabetta, con la frase che ha detto, I am still alive, per la Brexit. Mm-hmm. Ricordiamo, gli è stata chiesto come stesse appena dopo e lei ha detto sono ancora viva. È un video che poi ha girato moltissimo, molto divertente. È bella la notizia c'è, ma non è il personaggio che avevamo scelto per questa settimana. Esatto, non è lei il personaggio internazionale. Tra poco dopo la pubblicità, un altro indizio. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini. Ma anche da tutti i ragazzi di Radio Immaginaria, fatevi sentire ancora. Eccoli qua. Sì, che fatto così sembra che loro applaudono, in realtà prima hanno fatto un sacco di commenti molto precisi sulla Brexit. Come sempre, soprattutto si fanno molti ragionamenti quando c'è la pubblicità, però insomma, Matteo, così. Edoardo, Giacomo, Eugenio, Chiara, Ilias e Davide sono con noi. So che voi volete in qualche modo parlarci anche, e vi sta molto a cuore, del vostro mega raduno che si terrà a settembre. Chi dice qualcosa? Matteo? Allora, sarà a settembre a Castelguelfo di Bologna, che è il cuore, il fulcro di Radio Immaginaria, che nasce. Sì, esatto. È nata qui nel 2010, sarà il 10 e l'11 settembre, si terrà nel centro della città e quest'anno il tema è il lavoro, infatti è il lavoro spiegato dagli adolescenti. Infatti tra ragazzi dagli 11-17 anni il lavoro è sempre un'ansia, una paura. E quindi abbiamo deciso quest'anno di creare questi 20 cube case, li chiamiamo così, sono dei garage. Infatti spesso... Scusami, siccome noi abbiamo una nostra battaglia dove molto spesso diciamo delle parole inglesi, diciamo, ma perché si usano parole inglesi per cose che usiamo si possono... Usiamo l'italiano. È molto bello che dice, noi li chiamiamo cube case, che in realtà sono dei garage, mi sembrava molto bello, scusami, vai avanti. E quindi saranno questi 20 garage dove ci saranno delle aziende che ci sono piaciute parecchio, e, aziende, artisti... perché sappiamo, spesso le grandi realtà come Google, Apple, Instagram nascono tutti dai garage. Pensiamo a Steve Jobs. È famosa la storia del garage, sì. Dai Beatles a Steve Jobs. Esatto. E quindi abbiamo preso un po' di iniziative che ci piacciono e saranno dentro questi garage. C'è per esempio un'azienda che produce droni, ci sono i famosi Rockenthausen, che sono quelli che hanno fatto un video nel... 2015 che ha spopolato su YouTube, dove suonavano in 1000 contemporaneamente abbiamo parlato con Fabio Zaffagnino per portare i Foo Fighters a Cesena. Idee anche così straordinarie, originali, di partecipazione, no? Cose anche di questo genere. Poi ci sarà il fondatore di Radio Caroline, che è Tony Prince. Lui è stato il primissimo a mixare due canzoni contemporaneamente. Però. E quindi diciamo che poi ha dato origine a quelli innovatori, che sono i DJ. Anche innovatori. Quindi grandi ospiti al raduno a Castel Guelfo. Hai detto il 10-11 settembre. È una data che non ci si può dimenticare. Ci sarà anche Radio 24. Sicuramente vedremo chi, cosa, come, quando e perché. Ah, devo dare l'indizio, il secondo indizio questa mattina, perché per ora non siamo ancora arrivati a individuare chi è il personaggio. Il primo indizio che abbiamo detto era che è internazionale. Carlo? Il secondo indizio è che stiamo cercando un trio. A volte cerchiamo delle coppie di personaggi, stavolta ci siamo allargati. Addirittura tre, quindi... Tre. E siamo generosi, perché questo è un gran bel indizio. 800 24 00 24, ad attendere ci sono i biglietti della mostra di Miro al Mudec di Milano. E allora, adesso, a proposito di lavoro, ragazzi di Radio Immaginaria, vi facciamo sentire una storia che è un'idea, è una proposta anche di lavoro, non proprio in tema con quelle di cui avete parlato voi, è meno innovativa, sembra quasi un ritorno indietro, un ritorno al passato, ma è anche un presente per tanti aspiranti agricoltori. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it weighs on him. Then tries to run. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. He takes a manner of pills and piles up all of his bills in the country. Country House dei Blair. Vi ricordo che tutte le nostre scelte musicali le ritrovate sulla pagina di Si Può Fare sul sito di Radio 24. Sono le playlist di tutte le puntate e le pubblichiamo particolarmente il lunedì mattina. Allora, aspiranti agricoltori, state all'occhio, ascoltate all'orecchio, anzi in questo caso perché, all'orecchio. Perché dalla Sardegna arriva una notizia che vi può interessare, un po' come è accaduto già in altre regioni, ne abbiamo parlato per esempio in Toscana. La Sardegna ha pubblicato un bando, Terra ai Giovani. Terra ai Giovani, è con noi l'assessore all'agricoltura e riforma agropastorale della Sardegna, Elisabetta Falchi, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno e benvenuta, buona domenica. Allora, assessore, come funziona questo bando? In che modo? Noi abbiamo raccontato altre storie nelle quali si cerca di favorire l'incontro tra una domanda di possibili aspiranti agricoltori, persone che hanno un'idea, un progetto per un agriturismo, per la produzione di frutti biologici con cui fare marmellate straordinarie, eccetera, e il problemuccio che molti hanno, spesso, tanti, di non avere la terra. Perché costa anche molto, no? E quindi è un investimento. È uno dei principali problemi. Il fattore terra è uno dei principali problemi, soprattutto per chi non è figlio di agricoltori o di famiglie tradizionalmente contadine. Sì. E come avete pensato voi di ovviare a questa situazione? Ma avevamo purtroppo da anni dei terreni abbandonati, incolti, che erano di proprietà e che sono di proprietà delle agenzie agricole, terreni nei quali venivano fatte attività che ormai da tempo non vengono più svolte, e quindi questi terreni abbandonati era un vero peccato tenerli in questa situazione, e quindi abbiamo pensato di metterli a disposizione di giovani che vogliono avviare un'attività di impresa agricola. Ecco, quindi mi faccia dire una cosa subito, poi la faccio proseguire e ci spiega il meccanismo che avete pensato, perché ci sono questi giovani. Noi qua abbiamo in studio i ragazzi di Radio Immaginaria, magari poi mi direte se qualcuno di voi o vostri amici ha mai pensato a un futuro di questo tipo qua, però le statistiche, i dati, noi ne parliamo spesso, ci dicono che c'è una generazione nuova di giovani agricoltori, ce lo dice la Coldiretti, ce lo dicono tante indicazioni. Certo, sono ancora di più purtroppo le aziende agricole che chiudono di quelle nuove che aprono, perché lavorare la terra è faticoso, è pesante, i prezzi non sono spesso molto remunerativi, però c'è questa un ritorno. Soprattutto un ritorno non da parte di figli di agricoltori, come si stava dicendo. Una delle persone che intervistiamo spesso, Letizia Maria Gardoni, è una rappresentante dei giovani Coldiretti. Lei si è fatta il suo bel mutuo, si è comprata la sua terra e ha deciso di coltivare lì i prodotti che poi vende, e si è inventata una vera e propria attività, e lei è una rappresentante, anche un'incarnazione anche umana, che si può fare in questo caso. Assessore, prego. Ma sì, anche in Sardegna il comparto agricolo ha grandi potenzialità, però abbiamo un problema, come poi in tutta Italia abbiamo necessità di avviare un ricambio generazionale, anche perché dalle imprese dei giovani arrivano le idee più innovative, quelle che sono in grado di trasferire quel maggiore valore aggiunto ai nostri prodotti e che ci consentono quindi, e consentono alle nostre imprese di stare sui mercati in maniera più competitiva. Quindi proprio l'esigenza di questo, di avviare un ricambio generazionale, ci ha spinto a mettere a disposizione, in questa è una prima fase, una parte dei terreni sia della regione ma anche dei comuni, grazie a una norma della legge di stabilità regionale, poi proseguiremo anche con i comuni. E quindi era proprio l'obiettivo era proprio quello di aiutarli anche cogliendo le opportunità che arrivano dai piani di sviluppo rurale che sono in fase di avvio, piani che agevolano e che facilitano i primi insediamenti dei giovani in agricoltura. Ormai l'agricoltura sta diventando un settore accattivante, si può fare tanto e si possono creare imprese veramente interessanti. Assessore, quindi, ci spieghi anche e soprattutto spieghiamolo agli ascoltatori che possano essere interessati a questa iniziativa. Quanti ettari di terreno, quanti lotti, come funziona il canone agevolato che avete pensato di concedere? Quindi un affitto scontato, immagino, un affitto... Certo, è un affitto scontato, un canone agevolato più basso di quelli che sono solitamente sui mercati, e abbiamo individuato in questa prima fase di ricognizione 11 lotti che sono un po' sparsi in tutta la Sardegna e hanno anche una diversa vocazione culturale, quindi lotti che possono essere adatti alla cerealicoltura, altri un po' più ad agricoltura di tipo intensivo, quindi orticoltura, e anche sono lotti di varie dimensioni e estensioni. E questi lotti verranno messi a disposizione con questo bando che è aperto, che chiuderà alla fine di agosto, ma in particolare nell'assegnazione dei lotti presteremo una grande attenzione innanzitutto al piano di valorizzazione aziendale, quindi sarà necessario un business plan, e alla formazione, al livello di formazione dei giovani che vogliono accedere. Ci sono giovani, tanti giovani laureati purtroppo, certo, in Sardegna, in agraria, che non riescono, non solo in agraria, anche in altre anche in legge, certo, che purtroppo non riescono a trovare una collocazione, magari hanno delle idee veramente interessanti, ma senza la terra purtroppo l'attività agricola è difficile da avviare. Ai ragazzi di Immaginare chiedo, avete qualche domanda all'assessore, avete qualche curiosità da chiedere, se ci volete pensare un attimo, oppure volete fare una domanda, oppure, esatto, una vera domanda, una nel domanda, senso per farsi esatto, assegnare un lotto in Sardegna da coltivare? Sì. Ci state pensando? Pensateci. Ma intanto una domanda gliela faccio io. Dove si trovano le informazioni? C'è un sito? Sì, perché c'è il sito della regione, il sito della regione Sardegna, basta digitare bando Terregione Sardegna e troverete di tutto. Mi raccomando, fate tanta pubblicità, perché queste iniziative sono bellissime, naturalmente, però poi bisogna fare tanta pubblicità, altrimenti poi si finisce... No, purtroppo avremo certe problemi al contrario, arriveranno tante domande e dobbiamo fare questo per recuperare infatti, altri terreni. E infatti, se ho capito bene, questo è solamente una prima tranche di 8 territori, ma però poi si proseguirà. Questa prima tranche bisogna fare la richiesta entro il 31 agosto, ma poi avete in programma di assegnare tanti altri lotti, giusto? Sì, esatto. In Sardegna abbiamo estensioni da troppo tempo non incolte e abbandonate, allora non dobbiamo perdere queste occasioni. Ragazzi, avete una domanda? Se no ve la faccio io a voi una domanda. Un altro, volevo segnalare un prego, assessore. Che sono stati inseriti nel bando, e cioè dare premialità ai giovani che si aggregano. Sì. Il nostro obiettivo è quello di fare insediare cooperative, possibilmente giovani società, perché chiaramente non giovani singoli. Sì, possono farlo anche i sindaci singoli, avranno però una premialità i giovani che sono in forma aggregata, che soprattutto l'unione fa la forza sempre e comunque. Ragazzi, più scusi, assessore, così abbiamo sette giovani in studio, abbiamo qua dei potenziali acquirenti delle terre, in questo caso non della regione Sardegna, perché i ragazzi sono tutti lombardi e delle vicinanze di Milano. Avete mai pensato a un'ipotesi del genere, cioè fare lavorare la terra, l'agricoltura? Avete qualche parente, nonni? Sì, c'è qualcuno che annuisce, Davide per esempio. Annuisce soprattutto l'unico maggiorenne, perché sta iniziando giustamente a pensare, dire forse devo iniziare anche a occuparmi, a fare un lavoro, a mantenermi qualche soldino anche, sinceramente. No, io poi avevo il mio nonno che era ha avuto una vita enorme, ha fatto tantissime cose, tra cui anche avere il pollice verde. Lui è passato da fare il partigiano a piantare fiori e mi ha insegnato, mi ha passato questa grandissima passione. Sì, proprio vedevo questi grandissimi orti nella sua casa. Bello. Totalmente curati. Lui fino all'ultimo momento, fino a quando ci ha lasciato, lui era sempre nel suo orto. Proprio era il suo modo per passare, cioè per evadere un po' da questo mondo. Quindi è stato qualcosa di incredibile. Il suo grande hobby, la sua passione. La sua immagino che insalate meravigliose che mangiavate a casa del nonno. Erano una cosa incredibile. Giuro, non ci potevo. Io stavo troppo bene quando ero piccolino. Stavo però, bene al mondo. Ragazzi, ma cosa pensate adesso che abbiamo sentito l'assessore della Sardegna che fa questa proposta ai giovani? È una cosa che vi potrebbe stuzzicare o è una cosa che so da sfigati andare a lavorare la terra? Che è una cosa che va bene per il nonno di Davide, ma non per voi? Sempre meno ragazzi obiettivamente vogliono fare una cosa del genere. Esatto. Però magari uno su 10, uno su una mosca bianca, qualcuno c'è, ma come lo giudichereste un ragazzo che vuol mettere su, che so, un agriturismo a 20 anni o coltivare frutti di bosco per fare marmellate? Alla fine in piccolo sta iniziando a fare l'imprenditore obiettivamente, quindi certo. Cioè, è una carriera... Rispetto assolutamente, su questo punto di vista sì. Diciamo che il contadino, perché alla fine poi... Lo si il chiama nome così, è quello, esatto. Sì. È visto come un lavoro che facevano i nonni. Cioè, io vedo mia nonna che ha l'orto. E sì. Anche la tua? Anche la mia, sì, vedi. Sì, è una cosa che credo accomuni tutti i nonni, l'orto. Però tra di noi ragazzi sempre meno. Cioè, c'è sempre la prospettiva di andare a lavorare in ufficio. Non è il punto di partenza, insomma, non si parte di lì coi sogni per il futuro. Esatto. Non si parte e poi ricordiamo che come i nostri nonni mangiavano i pomodori, anche noi mangiamo i pomodori. Quindi tu giustamente dici un lavoro da vecchi, ma qualcuno lo deve fare. Esatto, perché sennò. Come funziona? E poi vengono anche esportati prodotti, cioè vengono importati prodotti da paesi esteri e quindi c'è sempre meno produzione locale. Vedo anche che un sacco di terreni che erano usati per coltivare degli alimentari, che possono essere pomodori e qualsiasi il altro, mais, il grano, qualunque cosa, certo, vengono utilizzati per costruire palazzi. Il consumo del suolo si dice in gergo giornalistico. È una cosa, come la giudichi? Preoccupante? Preoccupante perché si potrebbe arrivare ad una città completamente grigia. Sì. Cioè io arrivo da Varese, dove forse è uno degli esempi più più grigi, volevi dire. Quindi assessore Sardo Falchi, sì, ha sentito, da un lato c'è una voglia di verde, di mantenere l'ambiente come è, quindi ben venga il bando per le terre giovani, dall'altro però fate un po' di pubblicità, perché non so se avrete davvero tutto questo queste domande, perché ha sentito, i ragazzi qua non sembrano molto, ahimè, ha ragione, però è sempre maggiore la consapevolezza di quanto l'agricoltura sia, fare l'agricoltore sia un mestiere moderno, perché ormai sei proiettato nel mondo, devi seguire i gusti dei consumatori, sei continuamente a contatto con il mondo, un mondo che cerca sempre più cibo di buona qualità, e allora io dico che non è più un mestiere da vecchio, da contadino, ma un mestiere moderno che può dare tante opportunità ai giovani. Noi di questo ne siamo fermamente convinti ed è per questo che volevamo fornire opportunità. Poi ci sentiremo quando sarà chiuso il bando e vi diremo quante domande abbiamo ricevuto. Molto volentieri, molto molto volentieri. Noi siamo sempre disponibili a raccontare gli sviluppi anche di queste storie, di questi annunci. È importante anzi seguire come vanno a finire questi bandi, questi annunci, perché spesso c'è lo scetticismo anche tra gli ascoltatori che dicono sì vabbè, ma poi chissà come va a finire, chissà davvero quanto tante terre, eccetera, eccetera. Perché bisogna anche avere voglia di far fatica, questa è la vera cosa. Quindi... In bocca al lupo, assessore Falchi, grazie per essere buona stata giornata. Con noi. Buona domenica. Buona giornata. Allora, ascoltatori, 800 24 00 24, vi ricordo che cerchiamo un personaggio della settimana, un personaggio internazionale, ma soprattutto qua parliamo di un trio, quindi sono tre personaggi, c'è una notizia a livello internazionale, pensate e vi aspettiamo all'800 24 00 24 tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, abbiamo un bel SMS. Sì, abbiamo innescato il campanilismo parlando del, di Firenze e la battaglia contro il McDonald's. E qui ci scrivono che comunque a Livorno c'è anche il Cacciucco Pride, quindi non solamente il Lampredotto Pride, la cui prima edizione si concluderà proprio stasera. Quindi ringraziamo Luisa e la salutiamo. Assolutamente. Tra il Cacciucco e il Lampredotto è una bella battaglia, ma sono due cose diverse. Perché il Lampredotto, scusate, ma lo so, sei pisano. Quei filati fra i lovernesi e i toscani. Lampredotto, l'ha detto bene Gilberto Bertini, è street food, cioè è un panino che si mangia al volo, certo, durante la giornata, così insomma, magari dal pomeriggio in poi. Il Cacciucco, meglio la sera pure, però ti devi sedere al ristorante, perché certo, è una vera zuppa di pesce, proprio ricchissima. È esquisita. Ricchissima. E altra bella domanda, sentire via... anche i ragazzi di Radio Immaginare su questo. Sul Cacciucco? Che pensi? No, su McDonald's a Firenze. Volentieri. Avete capito la notizia a cui siamo partiti prima che voi veniste in onda? Il sindaco di Firenze, Nardella, ha... ci sarà una commissione che dovrà valutare il progetto di McDonald's di aprire un grande ristorante in centro, in Piazza Duomo. Poi il sindaco ha detto siamo contrari, perché noi vogliamo favorire soprattutto le botteghe storiche, i ristoranti tipici, i fiorentini, vogliamo una città che sia non solo per i turisti, non solo per i turisti, ma anche per gli abitanti del centro. Avete un'idea su questo, Edoardo? Io sono anche d'accordo con il sindaco, perché comunque vedendo anche che comunque McDonald's lo puoi mangiare da qualsiasi parte, vedo a Bergamo ce ne sono due o tre. Sì. Invece ristoranti locali e sì, botteghe anche dove si mangia ancora roba locale che è proprio un prodotto tipico, stanno... Un valore, piano, tu, esatto, dici anche per noi, certo. Stanno anche piano piano svanendo, quindi io sono d'accordo sul centro storico comunque. Ma tu ci vai da McDonald's? Sì, immagino, no? Sì. Ci vado veramente poco. Bravo, sincero. No, è vero, perché sicuramente McDonald's non ha problemi ad aprire un punto di ristorazione in una città italiana. Probabilmente in questo caso avrà un grosso problema per aprirlo in Piazza Duomo a Firenze, perché se non gli danno l'autorizzazione non riuscirà. Quindi da questo punto di vista sto con Edoardo, tutelare i piccoli esercenti, i piccoli produttori di cibo locale, e mi sembra anche a me che sia un valore per la città, laddove McDonald's invece è sempre in grado, in qualche modo, essendo una grande catena, di arrivare e vendere i suoi panini ovunque nel mondo. Allora, abbiamo una risposta, credo, per il personaggio. Silvia da Roma, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. E buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie Silvia. Cosa voleva... Chi è il personaggio? Allora, io forse la mia risposta è un po' troppo scontata. Sembra, siccome avete parlato di un trio, io ho pensato ai ragazzi del volo, che è proprio a Firenze. Ho fatto quella bellissima serata e allora ride Silvia, allora Silvia sta ridendo, no, è giusto, poteva assolutamente essere, lei dice se l'indizio è il trio e questi si chiamano il trio, effettivamente è potrebbe un po' come quello del presidente dell'Inter. Anche su Firenze, se posso, sì, posso esprimere, certo, una testimonianza al volo, sì, diretta, perché io pochi giorni fa sono stata qualche giorno a Firenze, che amo moltissimo. Però, ecco, io volevo un pochino contrastare l'idea del sindaco, sì, in quanto sono rimasta sorpresa, sì, perché a Firenze, sì, nei negozi tipici, insomma, di fiorentini ne ho trovati pochissimi. Nei ristoranti o sono napoletani. Ma è proprio quello che vuole fare il sindaco, Silvia. Grazie per aver chiamato. Scusi, vado veloce perché siamo quasi in chiusura. È proprio quello che vuole fare il sindaco di Firenze, tutelare le cose locali a discapito di quelle che vengono in qualche modo dall'esterno. Aggiungiamo. Sì, la vera domanda però da chiedersi è, sì, forse il McDonald's è più per i cittadini piuttosto che uno che viene da fuori, invece i ristoranti, quello tipico, è proprio per i turisti. Ma comunque, prego Ale. Questa è anche una bella interpretazione. Allora, io lo butto lì l'indizio. Magari qualcuno chiama e indovina. Abbiamo però 2 minuti, non so se ce la facciamo. E poi l'ultima domenica ce lo portiamo all'anno prossimo, questo personaggio. Gli sta a cuore l'istruzione, a questo trio di personaggi internazionali. Amano l'istruzione, si preoccupano per l'istruzione, per la scuola. Qui abbiamo i ragazzi che hanno appena finito l'anno. Sì, la scuola direi che ne manca ancora. Ha fatto l'esame. Voglio farvi una domanda. Noi qua siamo Radio 24, si può fare intrattenimento, informazione. Per voi è importante essere informati da 0 a 100? Cioè, sì, le notizie, sì. Come vi informate? Web, TV? Web, tutti i social, tutto. I social, vedi, ha detto social, soprattutto. Se doveste fare una percentuale, no, da 0 a 100 di quanto web, quanto a TV e quanti libri o giornali leggete, che percentuale faresti? Non so, per esempio, io ti dico, per me potrebbe essere un 50% di web, 40% di web, 30% di TV e un 20% di giornali. Io ho un 10% di libri giornali, 70% web e 20% la TV. Radio TV, mi raccomando, sì. Diciamo, che diamo per scontato, TV. Ma c'è, ci siamo anche. E comunque è già interessantissimo un dato così, perché sì. Non è più la televisione, è il web. Tutti noi da ragazzini avremmo detto la televisione. Siamo in chiusura? Sì. Sì, signori. E allora? Devo solamente ricordare, sì, che oggi alle 17 al Piccolo Teatro di Milano, all'interno del Festival Mix o Mix Festival, presento il mio libro appunto al Piccolo Teatro, nella scatola magica del Piccolo Teatro. Fossi in te, insisterei. Esatto. Una lettura che consiglio anche a loro, perché è un grande libro, quello di Carlo, non l'ho mai detto, ma adesso lo dico. Grazie. Allora, Andrea Piana, Lorenzo Nespoli, Claudia Schiattone e Peter Bescapè, oggi in regia, questi sono i saluti e i ringraziamenti. Grazie a voi di Radio Immaginaria, ragazzi. Grazie. Grazie. Grazie.